Nell'ambito della tradizione buddista classica si è sempre data la preferenza, o comunque si è sempre esercitata preferibilmente, un'attività diretta al miglioramento interiore, al perfezionamento interiore, quindi un'attività di tipo, diciamo, interno e anche individuale. Mentre il buddismo impegnato si occupa di qualcosa che avviene all'esterno, che si può cercare di far avvenire all'esterno. Quindi è qualcosa di un po' nuovo rispetto alla tradizione classica che conosciamo. E nella quale tradizione classica, come ho detto, poca attenzione in genere è stata riservata al lavoro esterno. E questo nonostante ci fossero, ci siano, dei punti di riferimento anche nell'ambito della tradizione classica, punti di riferimento che riguardano o possono riguardare il buddismo impegnato, cioè il lavoro per gli altri, e sono punti di riferimento anche molto importanti. Qualcuno fa riferimento addirittura a parole del Buddha. C'è un sutra, mi sembra Sinada Sutra, in cui viene prescritto ai re di distribuire parte dei loro beni ai sudditi che ne hanno bisogno, e addirittura poi viene indicata tutta una serie di tragedie, di elementi negativi che possono derivare dal fatto che questo non avviene e che ci sono dei sudditi in stato di grande bisogno. Poi abbiamo un sutra dal nome impronunciabile che comunque non ricordo, esalta la figura del Bodhisattva, ma l'esalta non soltanto per l'aiuto di natura mentale che è chiamato a svolgere nei confronti delle persone con cui ha contatto, ma l'esalta anche sotto profilo di aiuti di natura pratica, di natura materiale, che vengono ritenuti necessari perché l'azione del Bodhisattva sia veramente, veramente efficace. Poi ci sono i famosi editti dell'imperatore Asoka, quelli incisi nella roccia, incisi nel bronzo, che possiamo leggere ancora adesso, e che addirittura prescrivono ai governanti, prescrivono ai re, proprio di costruire, di erigere, di creare certe strutture pratiche come ospedali, asili, fontane per l'approvvigionamento dell'acqua, destinate tutte queste strutture non soltanto al benessere degli esseri umani, ma al benessere anche degli animali. E poi c'è come punto di riferimento, diciamo generale, il principio della compassione, principio che è fondamentale nel buddismo, in particolare nel buddismo Mahayana. Ora, la compassione, se è intesa come condivisione della sofferenza degli altri, non può essere limitata ad un sentimento interno o anche semplicemente a un'intenzione, come a volte veramente succede, che si rimanda l'attività in favore degli altri a quando si sarà ottenuta l'illuminazione, e quindi rimane allo stato di intenzione. E questo evidentemente limita l'efficacia della compassione, cioè limita il modo di essere della compassione, perché lo priva di una parte fondamentale che è la messa in opera di questa compassione attraverso un'azione. Quindi impedisce questa limitazione, impedisce di trasformare la meditazione, la contemplazione in azione. Nonostante ci siano questi punti di riferimento nella tradizione classica, però in pratica l'attività inserita in questa tradizione è stata diretta principalmente all'interno, al perfezionamento interiore. E si è dovuto aspettare moltissimo tempo perché invece anche un'attività diretta verso l'esterno cominciasse a essere osservata e considerata come una via di pratica. Si è dovuto aspettare addirittura fino alla seconda metà del secolo scorso, del 1900. Si è dovuto aspettare che Thich Nhat Hanh, nel corso della guerra del Vietnam, dicesse ai suoi confratelli che non era giusto che loro se ne stessero seduti tranquilli nel monastero mentre fuori dal monastero la gente moriva di fame o moriva di bombe, e che quindi era necessario uscire dal monastero andare nelle campagne, andare a trovare i contadini, andare a trovare le vittime della guerra e aiutarle in tutti i modi possibili. E questo lui ha fatto, questo hanno fatto i suoi confratelli, i suoi seguaci, sono usciti, sono andati a ricostruire, ad aiutare i contadini a ricostruire le case distrutte, li hanno aiutati a coltivare di nuovo la terra che era stata devastata dal passaggio della guerra. E Thich Nhat Hanh ha tradotto questo aiuto anche in politica, nel senso che ha predicato e ha cercato di convincere le due parti in causa a porre fine alla guerra e a intavolare trattative di pace. Infatti poi è anche stato presente a Ginevra quando le trattative di pace effettivamente sono state svolte. Naturalmente questa sua attività diretta alla pace in maniera neutrale non è stata ben accetta da nessuna delle due parti in lotta. Thich Nhat Hanh aveva costituito anche una scuola di servizio sociale e alcuni dei membri di questa scuola di servizio sociale furono uccisi, furono fucilati, non si è mai saputo esattamente da chi, ma entrambe le parti in lotta non vedevano di buon occhio l'attività di Thich Nhat Hanh, non l'hanno mai vista di buon occhio per molto tempo. Infatti dopo la guerra ha dovuto andare via, ha dovuto lasciare il Vietnam e soltanto negli ultimi anni ha potuto ritornare per qualche periodo in Vietnam. Comunque Thich Nhat Hanh aveva dato un esempio e questo esempio è stato raccolto, è stato approvato, è stato raccolto in molti paesi del mondo e delle attività che applicavano in sostanza i principi di Thich Nhat Hanh hanno cominciato a essere svolte e così è nata una scuola di pensiero che è stata denominata appunto scuola di buddismo impegnato. Impegnato vuol dire impegnato nell'azione sociale. Da cosa muove la costituzione di questa scuola? Muove dalla constatazione che nel mondo attuale alle tradizionali fonti di sofferenza che sono prevalentemente, nella tradizione classica sono prevalentemente individuali, riassumibili nel desiderio e nell'ignoranza. A queste forme di sofferenza mentale di tipo individuale nel mondo attuale si sono aggiunte delle forme di sofferenza molto più ampie, molto più vaste, direi globali, per tradurre in termini spirituali quello che è un termine usato in economia, la globalizzazione anche della sofferenza. Sofferenze che non interessano soltanto, non colpiscono soltanto singole persone, ma colpiscono interi gruppi di persone, intere comunità, interi paesi. Pensiamo all'oppressione politica come causa di questa sofferenza, l'oppressione politica, l'ingiustizia sociale, la diseguaglianza, la povertà, la fame, la guerra, il degrado ambientale. Sono tutte cause di sofferenza non soltanto individuale, ma direi collettiva, globale, come dicevo prima. E da questa convinzione è nato l'inizio, questa convinzione ha dato inizio allo svolgimento di varie attività in tanti paesi del mondo, soprattutto in ambienti e riguardo argomenti nei quali più frequentemente si verificano queste forme di sofferenza, come possono essere gli ospedali, le scuole, le relazioni razziali, la discriminazione, l'immigrazione, l'ecologia e nel nostro caso anche le prigioni, quello di cui ci occupiamo noi. E quindi è nato un nuovo concetto di responsabilità, alla responsabilità personale, che è sempre stato il fulcro, diciamo, della tradizione buddista classica, si è aggiunta una responsabilità di natura sociale, una responsabilità sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si è responsabili soltanto verso noi stessi, per il nostro livello mentale. Certo, quello lo siamo sempre, lo siamo ancora, ma questo si aggiunge una nostra responsabilità verso la società. Per questo si chiama responsabilità sociale. E questo è un concetto che il Dalai Lama ha fatto proprio e continua a ripetere, anzi lui l'ha estesa a tutto, lui parla di responsabilità universale E quindi questa estensione di responsabilità, che rappresenta un po' una novità nell'ambito della tradizione buddista. Con questo non si vuol dire che la tradizione buddista classica vada abbandonata, che la via di pratica buddista interiore, di progresso interiore, vada abbandonato o anche semplicemente trascurato. Non vuol dire affatto questo. Anzi, la via di miglioramento interiore, su cui poggia molta della tradizione buddista classica, è essenziale per arrivare anche a questa forma di responsabilità allargata, perché a questa forma di responsabilità allargata, responsabilità globale, responsabilità sociale, responsabilità universale, si può arrivare soltanto con un livello mentale abbastanza evoluto, piuttosto profondo, anzi molto profondo. E per arrivare a questo livello la via di pratica tradizionale prevista dalla tradizione classica buddista è indispensabile. Quindi non si tratta, il buddismo impegnato non si propone di sostituirsi come via di pratica alla via di pratica tradizionale, si propone semplicemente di aggiungere qualcosa di relativamente nuovo, di aggiungere qualcosa alla via di pratica tradizionale. Perché? Perché si è visto che ci sono dei problemi attualmente che un tempo non esistevano, o almeno non erano considerati e non erano così gravi come ora. Dei problemi per affrontare i quali la via di pratica tradizionale puramente interiore non è sufficiente, non basta più. A questo bisogna aggiungere qualcosa. E questo qualcosa, appunto, è quella che deriva dal senso di responsabilità globale, di responsabilità sociale. Questo ingrandimento, questo ampliamento non è molto, molto presente nelle tre tradizionali grandi vie di pratica buddiste, che sono l'Hinayana, il Mahayana e il Vajrayana. In questi tre yana questo allargamento, questo ampliamento del concetto di responsabilità è poco evidente. E allora qualcuno ha pensato, si è cominciato a pensare, e qualche studioso ha già fatto una proposta di questo genere, si è cominciato a pensare che il buddismo impegnato possa costituire una nuova via di pratica che si aggiunge alle tre precedenti, diventa una quarta via di pratica, diventa un quarto yana, oltre ai tre precedenti. È una questione di denominazione che ha un'importanza relativa, ovviamente, però è importante il concetto. Il concetto è che questa via del buddismo impegnato non sostituisce i tre yana precedenti, ma semplicemente aggiunge qualcosa. E in fondo si può fare riferimento a quel concetto buddista generale che vede il buddismo come un albero in cui c'è un tronco unico, dal quale tronco però si dipartono vari rami. I tre rami dei tre yana precedenti sono tre rami dello stesso albero, e così lo stesso albero può anche dar vita a un quarto yana, a un quarto rama, che diventa un quarto yana. Sempre basandosi, uno yana che si basa sempre sul concetto che a questi nuovi problemi che esistono oggi nel mondo si può reagire, o comunque si può cercare di affrontarli aggiungendo qualcosa alla tradizionale pratica buddista che si rivolge all'interno, aggiungendo qualcosa che si rivolge all'esterno. Ora, questo yana, appunto, questo grande merito, questo quarto yana, questo grande merito di recare beneficio, maggiori benefici agli altri, benefici non soltanto in termini mentali, di mente e di cuore, ma anche in termini di aiuti materiali. E poi anche un altro merito molto importante, forse ancora più importante, che costituisce un sentiero privilegiato di accesso alla trascendenza. Questo occuparsi degli altri porta a un abbandono o almeno una diminuzione del senso dell'io e soprattutto dell'attaccamento al senso dell'io, perché ci si occupa di altri, si esce dal proprio guscio che è limitato alla propria pelle e si entra in una dimensione più vasta. E questa dimensione più vasta è quella che porta alla trascendenza, cioè all'uscita proprio dal sé per entrare in qualcosa di molto più ampio. E questo è molto importante perché in fondo lo scopo finale del buddismo è proprio quello di trascendere il sé e di arrivare a un concetto, una sensazione molto più ampia che quella poi della vacuità, cioè della mancanza di un sé separato. E vi posso dire per esperienza personale che questo effettivamente avviene quando ci si occupa degli altri. Se voi andate di corsa verso un ospedale portando in mano una fiala di sangue che è stata richiesta per una trasfusione urgente, il sé separato scompare e voi diventate tutt'uno con la fiala che avete in mano e tutt'uno anche col malato che la sta aspettando. E su questo argomento vorrei chiudere citando una frase di Meister Eckhart, grande mistico cristiano del 200-300, che se fosse vivo e se fosse buddista, io credo che sarebbe un buddista impegnato. Perché la frase che ha detto, che vi riporto, è questa. Ha detto, anche se io fossi in uno stato di rapimento spirituale così profondo come quelli di San Paolo, ma sapessi che fuori c'è un malato che aspetta da me un piatto di minestra, rinuncerei al rapimento e correrei ad aiutarlo. Ecco, io ti ringrazio Meister Eckhart per questo sostegno che dai al buddismo impegnato e ringrazio voi per essere qui.